con Giuliano Bugani, autore del libro Inchiesta Saccheggio Sanità, che sarà presentato a Bologna, all'Ubic Libreria Irnerio, sabato 4 maggio 2019. Giuliano, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Con te la scorsa volta avevamo parlato del documentario realizzato sulla questione sanità, ora è la volta di un libro, raccontaci un po'. Allora, l'idea del libro, intanto grazie di questa opportunità di parlarne, perché la stampa non ne ha assolutamente parlato, le case editrici che ho contattato, circa 15, sono rifiutate di pubblicarmi con la scusa che sarebbero stati chiusi il giorno dopo la pubblicazione, quindi è un'autopubblicazione fatta con il sostegno economico dei comitati di tutta Italia, comitati che difendono gli ospedali delle proprie zone, delle proprie città. E quindi grazie per questa opportunità. Il libro perché il documentario Mani sulla sanità la rivolta dopo 6 mesi di successi del 2017. Diciamo che ha subito le pressioni di poteri molto forti, ma molto forti, che hanno bloccato, cioè hanno provocato il blocco delle proiezioni. Quindi il documentario Mani sulla sanità, la rivolta, è morto. Quindi nell'ottobre 2017 decido di scrivere un libro inchiesta su quasi tutte le regioni d'Italia sullo smantellamento della sanità pubblica per privatizzare la sanità. E quindi riesco a trovare documenti ufficiali di 9 regioni, quindi questo libro dal titolo Saccheggio Sanità parla di queste 9 regioni, ma ovviamente è un disegno europeo se non mondiale di privatizzazione di tutti i servizi, tra i quali la sanità è il progetto madre, nel senso che una volta privatizzata la sanità, a cascata cadrà tutto. Quali sono i punti cardine di questo smantellamento? Lo smantellamento nasce, io lo scrivo nel libro, una cosa che pochissimi sanno, nasce subito dopo l'accordo di Marrakech del 1994. Tra gli aderenti di questo accordo internazionale, apparentemente che regolamenta le dogane, all'interno di questo grandissimo documento di 600 pagine c'è un allegato che tratta la sanità. Nel libro spiego anche il metodo dello smantellamento della sanità, che parte appunto dall'accordo di Marrakech, poi 2 anni dopo, nel 96, la legge Bassanini, che privatizza i dirigenti sanitari, cioè i dirigenti sanitari, tu saprai, sono nominati, pur essendo dipendenti pubblici, c'è questa anomalia. Pur essendo dipendenti pubblici, i direttori generali sanitari sono nominati dal presidente di regione, quindi uomini fidatissimi che devono applicare la politica sanitaria di quella regione. E quindi l'accordo di Marrakech, la legge Bassanini e poi i parametri da conseguire e dentro i quali restare che, se non raggiunti, prevedono lo smantellamento dell'ospedale. Com'è strutturato il tuo libro? Sono 20 capitoli, 250 pagine, costo 10 euro e il primo capitolo è una premessa di Fulvio Aurora, che è attualmente il direttore della rivista Medicina Democratica. C'è questo articolo di Fulvio Aurora dove spiega cos'erano le mutue negli anni 60-70, con la riforma sanitaria che fa questo grandissimo passo avanti, riempendo, facendo leva sull'articolo 32 della Costituzione che dà la garanzia di sanità pubblica e gratuita a tutti, e poi i capitoli successivi sono capitoli 9 sulle 9 regioni, ma gli altri 11 appunto sono capitoli di sostegno, di supporto, tra i quali il metodo dello smantellamento, l'esperimento Milgram, dove io faccio una parafrasi tra l'esperimento dello psichiatra Milgram sull'olocausto. Milgram era uno psichiatra ebreo che scappò con i genitori in America durante il nazismo e fece questo esperimento con i cittadini americani per dimostrare come era stato possibile che un uomo potesse uccidere in massa altri uomini senza avere rimorsi. E quindi l'esperimento Milgram riprende in parte questo saccheggio sanitario perché questo saccheggio sanitario provocherà milioni di morti, perché un capitolo, per esempio, si intitola appunto deprescrizione. Ripeto, deprescrizione. Tu vai dal medico per farti prescrivere, giusto? Sì. Invece io ho scritto un capitolo che si chiama appunto capitolo della deprescrizione, perché sono venuto in possesso di un documento segreto che è circolato qui in Emilia Romagna, ma sembra che abbia già circolato nel settembre del 2018 anche in Sardegna, e è partito da alcune ASL di Piacenza o di Parma ed è arrivato da alcuni medici di medicina generale, quelli che comunemente chiamiamo il medico di base o il medico di famiglia. In questo documento c'è un questionario segreto, e ti dico solo una domanda che viene rivolta segretamente ai medici di base, e dice questa domanda: sarebbe disposto lei a deprescrivere farmaci, cure mediche e visite mediche a persone anziane la cui aspettativa di vita è ormai limitata nel tempo? Questo io credo che sia già la porta di un nuovo nazismo, e questo documento segreto, del quale io sono in possesso ed è nel libro, svela la continuità veloce di questo smantellamento, che passa addirittura attraverso anche i medici di base, non soltanto le strutture fisiche come gli ospedali e le ASL, ma anche la metodologia di intervento sui malati, sui pazienti, cioè il medico di base. Questo è un documento segreto che è stato fatto circolare durante il ministero Giulia Grillo del Movimento 5 Stelle. Dico questo perché lo smantellamento comincia sì nel 94 con le forze tradizionali, no? Partito Democratico, che allora si chiamava, mi sembra, PDS, e Forza Italia e Lega. Poi nell'anno scorso, quando arriva per la prima volta al governo il Movimento 5 Stelle, invece di invertire la rotta sullo smantellamento, conferma lo smantellamento che già in parte è richiesto dall'accordo di Marrakesh e dalla legge Bassanini, e porta avanti questo disegno diabolico. Quindi tutte le forze politiche presenti in Parlamento, nessuna esclusa, sono coinvolte in questo smantellamento sanitario che è un vero e proprio saccheggio. In chiusura, Giuliano, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più su questo appuntamento bolognese, ma anche più in generale sul libro? Non avendo un distributore, perché non ho un editore, no, sono l'editore di me stesso, quindi io ti posso lasciare la mia mail se vuoi: bogani.giuliano@gmail.com. E allora ricordiamo anche la presentazione del libro inchiesta Saccheggio Sanità a Bologna, Ubic Libreria Irnerio, sabato 4 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autore Giuliano Bugani. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a voi tutti, ciao.